prima che muoia, e nell'ultimo scampolo proprio il Sartre gli dice: devi essere il tuo nome in un modo o nell'altro, libero. Perché lo incontra proprio, lo incontra fisicamente, alle Deux Magots, che è il caffè, non è il Café de Flore dove lui andava sempre Sartre, ma ogni tanto andava alle Deux Magots e lo incontra lì fisicamente, questo vecchietto con gli occhialini tondi e la pipa, gli dice: devi essere il tuo nome, libero. Allora capisce che ha una missione in parte, quella di essere lì, di liberarsi. E Parigi è così, è un po' magica, ferisce tanto perché illude, e quando lui andrà a Milano capirà che Parigi, che è la grande bellezza dell'Europa, in verità non l'ha costruito così tanto, e lo costruirà a Milano, che è la piccola bellezza dell'Europa, che però ha la sostanza. Questo è un romanzo che io ho consigliato molto a tante persone, a tanti colleghi, e ci sono state reazioni molto diverse. C'è chi l'ha amato, c'è chi è rimasto un po' sconcertato. Tendenzialmente forse l'hanno amato più le donne degli uomini ai quali l'ho consigliato. Uno scrive libri e li mette al mondo. L'unica cosa che può fare è fare i libri come meglio riesce, come meglio può e come li sente davvero. È ovvio che è un libro molto forte, a partire dal titolo, Atti osceni in luogo privato, dalla copertina, dal sesso viscerale, nudo, mai volgare, però un libro forte, per cui è normale che ci sia un bivio. Per cui è molto strano che le donne lo amino particolarmente, mi aspettavo più gli uomini. Invece anche io avrei pensato a un libro più maschile, ecco, e invece è ribaltato completamente. Le donne sono proprio quelle che lo stanno portando, lo consigliano tremendamente, forse perché capiscono un po' come pensano gli uomini. Romanzo da mettere in valigia oggi e dunque Atti osceni in luogo privato, l'ha scritto Marco Missiroli, pubblicato da Feltrinelli. Il cacciatore di libri. Romanzi in valigia. Atmosfere completamente diverse per questo secondo romanzo da mettere nella vostra valigia per accompagnare il vostro fine settimana o le vostre giornate di vacanza. Eric Satie, musica classica. Perché la musica classica è in parte la protagonista di questo romanzo, Il cuore inesperto, l'ha scritto Francesca Scotti, pubblicato da Elliott. Protagonista è Anita, 17 anni, che frequenta il conservatorio a Milano e che ha una relazione passionale con il suo insegnante di viola, che si chiama Gabriele. In questo romanzo la musica ha un ruolo importante, vengono spesso citati molti brani di musica classica, come ci racconta la stessa autrice Francesca Scotti. Certamente la musica classica ha un ruolo di sfondo, ma anche di protagonismo, nel senso che i personaggi è come se alternassero all'interno del loro percorso e della loro formazione un'esperienza, che è quella della musica, dello studio, del controllo, della disciplina, e invece un'inesperienza che lasciano tutta al territorio del cuore. Quindi se le dita, le mani, la mente può diventare esperta e nella musica questo viene richiesto, e invece nel cuore sono tutti in qualche modo innocenti. Quindi è una musica che si ascolta, e quindi la nomino proprio nel tentativo di avvicinarla, di renderla un linguaggio che poi fa parte di tutti, perché anche questa musica che abbiamo scelto di mettere, molti ascoltatori sono convinta che l'abbiano già sentita. Non essendo un'esperta assolutamente di musica classica, la conosco e fa parte un po' del mio immaginario, ecco. Esatto. Hai detto una cosa che mi ha colpito molto adesso mentre parlavi, cioè hai parlato del controllo, perché in questo romanzo c'è molta alternanza fra la necessità di avere il controllo della situazione, della propria vita. Le persone che suonano devono avere il controllo di se stesse, dei movimenti delle mani, e invece la voglia di abbandonarsi a una passione sfrenata. Anita, questa ragazza di 17 anni, è un po' divisa fra questa mania del controllo e la voglia di lasciarsi andare. Assolutamente, lo sono in modo diverso, con declinazione diversa, un po' tutti i personaggi di questa storia. Certamente in Anita è stato per me più semplice andarlo ad identificare e declinarlo nelle due facce, come dici tu. Da un lato la voglia di diventare grande rapidamente anche tramite gli uomini della sua vita, quindi passando anche attraverso una relazione adulta e matura come quella con Gabriele. E quindi anche lo studio della musica rientra in questo percorso netto che lei vorrebbe fare. D'altro canto c'è invece tutto il resto, c'è tutta la pancia, il cuore, le emozioni che prendono tutte le strade, un po' come fa l'acqua, e poi trovano il modo per emergere, insomma, travolgenti. E a proposito di controllo, la protagonista Anita ha un rapporto conflittuale anche col cibo, per esempio. Lei mangia determinate cose, è molto attenta a quello che mangia, mangia poco, sembra quasi, insomma, una ragazza che ha dei problemi con il cibo. Sì, allora per me quella del cibo è sempre stata, cioè sempre in realtà nel mio percorso di scrittura, è stata una lente che ho utilizzato per andare ad ingrandire, ad analizzare i comportamenti dei personaggi, e in questo caso mi è servito chiaramente nel suo statuto ambiguo, perché il cibo ha quasi sempre uno statuto ambiguo di, da un lato, presa di cura, attenzione e appunto anche controllo, e dall'altro, e dall'altro sfogo, lo sfogo. Quindi lei nelle sue forme di controllo, che non sono semplicemente una privazione, lei non si priva semplicemente del cibo, ma mangia determinate cose, sceglie di mangiare in determinati momenti, non quando glielo dicono gli altri, e quindi è come se l'avesse utilizzato per raccontare qualcosa di lei e anche poi degli altri personaggi. Anche l'erotismo, parte dell'erotismo passa attraverso questo. Tra l'altro Anita proviene da una famiglia disgregata, i genitori sono separati, la mamma fa la traduttrice del giapponese, spesso è fuori in viaggio, quindi questa 17enne rimane spesso sola a casa, e intreccia un rapporto molto dolce, anche fatto di cura, con questa vicina di casa, naturalmente molto più grande di lei. Sì, è un po' la parte materna chioccia che io mi sarei immaginata come necessaria per un personaggio come Anita. Ho pensato che avrebbe potuto aiutarla. D'altro canto, sua mamma non lo poteva rivestire, perché è troppo vicina, probabilmente, mm-hmm. troppo con anche lei con un bisogno di ricollocarsi e risistemarsi all'interno della sua esistenza. Invece questa vicina, in parte con un percorso di vita già segnato, e anche lei in qualche modo connotato dalla musica, perché è l'unica che riconoscerà che lei suona la viola e non il violino, quindi subito si riesce a conquistare la fiducia di questa giovane vicina. E poi perché forse anch'io, e qui un po' c'è dell'autobiografismo, da bambina amavo attaccare bottone con le vecchiette al parco raccontare le loro storie. Quindi questo personaggio racchiude un po' tutte le vecchiette con le quali tu hai parlato nella vita. All'inizio di questa intervista ho detto che fra Anita e Gabriele c'è un rapporto molto intenso di passione erotica, e ho detto che si tratta anche che forse di un rapporto un po' malato, perché comunque è un rapporto che a volte destabilizza o l'uno o l'altro. Allora vediamo, dalla parte di Anita, cosa rappresenta questa relazione con Gabriele? Sicuramente da parte di Anita rappresenta un percorso rapido per accedere ad una sfera di autonomia, emancipazione e anche conferme delle quali ha bisogno, e che invece le arrivano in maniera molto difficile da filtrare per un adolescente da parte dei genitori e anche da parte di Ludovico, il suo coetaneo, che certamente ne è innamorato, ma non riesce a declinare, ad esprimere questa cosa. Quindi per lei Gabriele, oltre che rappresentare il successo nella musica e quindi sicuramente un modello, l'insegnante, un uomo più grande già e formato. Poi comunque è un uomo che sa fare, sa giocarsi la sua parte, e quindi in questi termini funziona molto bene, ed è anche il luogo giusto dove per un determinato periodo di tempo Anita sta, cioè non ha la malattia, quella che tu dici è forse un rapporto un po' malato, arriva probabilmente nel momento in cui l'amore, o più che l'amore, l'innamoramento, perché qua più che amore è innamoramento, è una grande passione, è una grande passione finisce, e allora quello che prima era indispensabile, quando l'innamoramento finisce, diventa intollerabile. Uno dei personaggi di questo romanzo, appunto la mamma di Anita, della protagonista, dicevamo, fa la traduttrice dal giapponese. Questo un po' non è un caso, perché, lo diciamo, Francesca Scotti è italiana, italianissima, ma ormai vive da alcuni anni in Giappone, a Nagoya, giusto? In che modo, se ti ha influenzato, la cultura in cui tu ormai sei immersa, quindi la cultura giapponese, ti ha influenzato nella descrizione dei personaggi di questo romanzo? Io credo che mi abbia condizionato parte dello sguardo. Credo che alcune di queste scene siano viste, per usare un termine non letterario ma di sbieco, siano leggermente arretrate, cioè il punto di vista è leggermente arretrato, e credo che questo modo di guardare di sfuggita, senza farsi notare, sia molto orientale. Questo secondo romanzo da mettere oggi in valigia si intitola Il cuore inesperto, scritto da Francesca Scotti, pubblicato da Elliot. Anche per questa puntata è tutto, grazie in regia a Paolo Corleone. Vi ricordo l'appuntamento con Romanzi in valigia e consigli per l'estate ogni domenica alle 17, e poi come sempre Il cacciatore di libri il sabato alle 6:30 per i mattinieri e alle 22. Su radio24.it trovate tutti i podcast. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.